Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, nuove abitudini, nuovi servizi, dal frigorifero supermarket di condominio alla beauty box su sottoscrizione a domicilio. Sono due dei temi che vogliamo riproporvi in questo nuovo appuntamento con l'antologia estiva di Essere Avere. E poi è stata un'astronauta, una chef stellata, una cantautrice, una calciatrice, una stilista, ora una campionessa. Barbie, la bambola icona per intere generazioni, ha concluso le celebrazioni per i suoi 60 anni di storia con un eccezionale modello di ispirazione ed empowerment per tutte le bambine del mondo, Bebe Vio. È sbarcato a Milano il primo supermercato di condominio, un servizio innovativo che in questo periodo diventa anche un servizio di utilità sociale. A proporlo Fresco Frigo, una startup italiana nata con l'idea di sviluppare un nuovo concetto di retail di prossimità. Questi primi 5 frigoriferi smart, accessibili 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, sono stati posizionati in un grande complesso residenziale situato a nord-ovest della città. Ci spiega tutto Enrico Pandian, ideatore e fondatore di Fresco Frigo. Si tratta di un frigorifero che viene installato all'interno dei complessi residenziali. È un frigorifero con una tecnologia a bordo che abbiamo sviluppato noi, e all'interno il consumatore trova tutti i beni di prima necessità, che possono essere quindi comprati direttamente all'interno del complesso residenziale invece di dover andare a fare la fila per fare la spesa. Il consumatore paga con carta di credito tramite un'app, perché il frigorifero si sblocca solo tramite la nostra app, oppure può pagare anche, se li ha, con i buoni pasto. Noi abbiamo iniziato a installare questi frigoriferi già da un anno all'interno degli uffici, e in alcuni uffici in particolare iniziavamo a vedere anche delle esigenze diverse, che non era solo il piatto per il pranzo ma anche qualcosa da portarsi a casa. E quindi è stato naturale, diciamo, poi il passaggio in questo momento particolare della nostra storia, provare a proporre invece una soluzione che fosse diversa per noi, ma che in realtà andasse sempre incontro all'esigenza del consumatore. Raccontaci l'idea di questo retail di prossimità di Fresco Frigo, il vostro modello di business. Tutto è nato perché io avevo un ufficio in una zona nord di Milano poco servita dai ristoranti e dalla food delivery, e quindi ho iniziato a pensare, insomma, ad avere un frigorifero con già il pranzo all'interno, e da lì è nata l'idea di Fresco Frigo. Abbiamo iniziato installando un primo frigorifero in un'azienda di Milano, abbiamo guardato per un mese come reagiva il consumatore ad avere un frigorifero che gli distribuiva un piatto salutare da mangiare, quindi non una merendina che trovi all'interno della vending machine, ma un piatto vero e proprio. E poi abbiamo iniziato ad introdurre altri prodotti, tipo la frutta fresca, tipo la macedonia, tipo i succhi pressati a freddo, insomma una scelta che fosse più salutare rispetto a quella che in quel momento offriva il mercato. Abbiamo capito che il consumatore recepiva, insomma, questa novità. Abbiamo deciso di, diciamo, affittare questi frigoriferi ai ristoratori o alla grande distribuzione, e quindi sono loro che pensano ad inserire il prodotto. I luoghi di installazione a cui state pensando, oltre ai condomini e agli uffici, quali sono? Ma in realtà stiamo vedendo tutta la parte dei business hotel, stiamo vedendo le palestre, che sono molto interessanti. Ci sono tanti, diciamo, oceani blu rispetto a dove venivano prima installate le vending machine, e sono esattamente i luoghi nei quali stiamo andando. Devo dire la verità che i complessi residenziali ci stanno dando veramente delle grossissime soddisfazioni. Sono complessi residenziali importanti. Hanno un minimo di 100 appartamenti. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. uno dei settori che ha saputo meglio interpretare la formula dell'abbonamento Netflix Economy, viene anche chiamato questo modello, è quello della cosmetica. Le beauty box sono un vero e proprio fenomeno molto chiacchierato in rete, dove i cosiddetti unboxing, cioè gli spacchettamenti, spopolano sui social. Le più famose beauty box sono negli Stati Uniti, ad aprire il mercato in Italia a Bibi, fondata 2 anni fa da 2 giovani imprenditori italiani, uno di loro è Mario Parteli. Ecco che cosa ci ha detto. Le nostre clienti ogni mese ricevono una scatola, una box, con prodotti di cosmetica a sorpresa, e all'interno contengono dai 3 ai 5 prodotti full size o travel size, quindi non dei campioncini gratuiti, di brand che andiamo a scovare in giro per il mondo, o di brand che sono già presenti in Italia e che vogliono immettere nel mercato delle novità. A quale prezzo e per quale durata è possibile sottoscrivere l'abbonamento? Le nuove clienti possono trovare il servizio a $19,90, quindi la prima box ha un costo molto basso. I piani standard sono trimestrali o semestrali. Il piano trimestrale ha un costo mensile di €29,90, mentre il piano semestrale di €24,90. Il valore minimo garantito è sempre superiore a €90, quindi è anche molto conveniente. La ricerca è una parte indispensabile del nostro modello e della nostra, diciamo, offerta, perché la novità è quello che vogliamo riuscire a portare a casa delle nostre consumatrici. I brand nel mondo sono moltissimi, perché il mercato della cosmetica ha un numero di imprese medio-piccole molto molto elevato, e quindi il nostro modello diventa il connettore tra un mercato, un segmento di consumatori molto, diciamo, verticale, con il brand che vuole riuscire a arrivare nelle case delle consumatrici. Solo consumatrici o anche consumatori? In questo momento la percentuale maggiore è femminile, in futuro potremmo valutare di estendere anche il nostro target. Ciao, sono Cetra e sto per incontrare il mio idolo. Cosa mi piace di lei? È sportiva come me, sorride sempre e tutto quello che non si può fare lei lo fa. Mattel prosegue con il suo impegno nel Dream Gap Project e celebra Bebe Vio, la famosissima atleta e campionessa paralimpica mondiale ed europea in carica, dedicandole la nuova Barbie One of a Kind. Il Dream Gap è il fenomeno in base al quale le bambine già intorno ai 5 anni smettono di credere nelle proprie potenzialità e abbandonano il sogno di poter diventare ciò che desiderano, di poter intraprendere alcune carriere. Bebe Vio è una role model, un esempio per tutte le bambine, un eccezionale modello di ispirazione ed empowerment. Incontrarla e ascoltarla è stata una grande emozione. Ecco che cosa ci ha detto. Pochissime bambine continuano a sognare, spesso per blocchi mentali che in realtà hanno i genitori o non hanno i bambini, quindi lo scopo è quello di far capire ai genitori di proprio lasciar sognare in grande le proprie bambine. E la cosa bella è stata non solo fare una Barbie a livello sportivo, ma farne 3, appunto per far capire che non devi fermarti a fare una cosa, ma devi veramente impegnarti ad essere tutto ciò che vuoi essere. Non ci sono mai limiti né di età né di impegno né niente per riuscire ad ottenere veramente ciò che vuoi. Tu hai un ricordo tuo con la Barbie? Io ricordi da piccola mia e con la Barbie, io le facevo giocare a wrestling, avevo il mini ring e le mie giocavano sempre a wrestling, ma perché sono cresciuta con solo maschi in casa, quindi per forza ho sempre fatto giocare a wrestling, però le donne vincevano perché mio fratello aveva gli omini maschi, cioè non il Ken, proprio aveva gli omini del wrestling ed erano contro le mie Barbie e vincevano le Barbie ovviamente. Ricordiamo anche la battaglia che tu stai facendo con la tua fondazione. Esatto, sì, la nostra è un'associazione Onlus, quindi donate, donate, donate, e lo scopo dell'associazione è quello, adesso noi siamo 35 ragazzi, lo scopo è quello di far sì che tutte le persone con amputazioni possano, noi in particolare siamo i giovani sportivi, possano avere la possibilità di andare a fare sport, di sognare anche attraverso la carriera sportiva, ma di farlo anche semplicemente prendi una gamba e vai a correre fuori. Sempre lo Stato non passa le protesi sportive, quindi una persona che senza una gamba teoricamente non potrebbe andare a correre, e quindi costa un sacco di soldi, quindi spessissimo tante famiglie non se lo possono permettere. A quel punto entriamo in gioco noi e aiutiamo, diciamo, economicamente e fisicamente i ragazzi a tornare a fare sport.

sport, passatempo, fenomeno di costume. Allo skateboard quest'anno la Triennale di Milano ha voluto dedicare una mostra, Tracce sul marciapiede. Ha presentato gli scatti di Paolo Cenciarelli, una selezione di skateboard creati dal tattoo artist Simone Errana e due video sulla scena skate di Milano e Roma ideati da Roberto D'Agostino, giornalista, opinionista, noto personaggio televisivo, il curatore della mostra. Nuova disciplina olimpica, sottocultura giovanile dagli anni 70 ad oggi, da prodotto a filosofia di vita. Lo skate fa ormai parte dell'immaginario collettivo, trasversale per classe sociale, età, genere, provenienza, un vero e proprio cult. Roberto D'Agostino parla di una sorta di oratorio laico. La cultura dello skate, che può essere da fuori vista come dei ragazzi un po' picchiadelli che saltano sui marciapiedi, poi dietro queste acrobazie scorre un fiume che è fatto di tante cose, che riguarda proprio la loro vita, la loro iniziazione, diciamo, alla vita adulta. Come tanti fenomeni giovanili che abbiamo visto, dallo skate al punk, pensa al punk, al rap. Purtroppo i giornali e le televisioni ne raccontano solo il lato folcloristico. Ecco che la cultura skate, che è una cultura che nasce nel 1976 a Los Angeles, nello stesso anno, questo è curioso, del punk a Londra. Nello stesso anno arriva un fenomeno che in qualche modo li lega in maniera molto forte. La cultura dello skate nasce da quello che è il bisogno di una gioventù che soffre la solitudine, che soffre il fatto che c'è un rito di passaggio dall'età adolescenziale a quella adulta. E come noi sappiamo, la gioventù ha bisogno di aggregarsi, di mettersi in qualche modo insieme per riuscire a superare la sua fragilità e crearsi una identità. Lo skate è una specie di oratorio laico, ha come tema fondamentale che se tu cadi, ti rialzi e ripeti il tuo gesto, non devi mai mollare. La vita è fatta di questo, di cadute, di salite, cadute. E soprattutto poi lo skate non è che ha bisogno di un istruttore, sono gli amici. Quindi è la vita, impara dalla vita come stare in piedi in mezzo a quello che è la società più convulsa che abbiamo. Lo skate è unico in tutto questo perché rientra in quel bisogno giovanile di stare insieme, di avere una sorta di fratellanza, una sorta di riuscire in qualche modo tramite una tavoletta con le quattro rotelle di avere quel coraggio di riuscire a superare uno dei periodi della vita più tremendi, che è appunto quello dell'adolescenza. È una pratica che è sopravvissuta agli anni, però vive in quest'ultimo periodo un grande ritorno di fiamma, diciamo così. Solo fascinazione in qualche modo per gli anni 80, 70, la stessa che c'è nella moda, nel design, nella cultura pop, o qualcosa di più? No, perché tanto non c'è stato mai un calo o un declino dello skate, mai. Poi ci stanno i giornali che più o meno lo prendono di petto quando succede qualcosa. E che cosa è successo? Che lo skate sarà una delle discipline che debutterà alle Olimpiadi. Ma lo skate oggi, ieri, l'altro ieri, c'è sempre stato. Io a Roma ci sono tutti questi gruppetti che si spostano da una piazza all'altra, da un quartiere all'altro, a cercare quelle difficoltà, diciamo, urbanistiche, no? Per fare le loro acrobazie. Quindi non è mai mancato, è sempre esistito. Strettissimo il legame dello skating con il contesto urbano e architettonico, come raccontano gli scatti di Paolo Cenciarelli. Questi scatti provengono da un archivio in realtà molto grande, riguardano soltanto le manovre, quindi l'espressione più tecnica dello skateboarding, ma è altresì vero che, visto il punto di vista e vista la forte estetica dello skateboarding, queste immagini cominciano a raccontare anche l'architettura della città e fanno vedere come un movimento che poi lo skate stesso è non solo un movimento, un gruppo di ragazzi in movimento, cominciano a dare una nuova lettura alla città, perché lo skateboarder vede la città da un altro punto di vista e vede l'architettura da un altro punto di vista. Lo skateboarder definisce e divide la città in spot buoni per skateare, quindi lo skateboarder in realtà è uno dei più grandi indagatori delle zone della città. Un nuovo quartiere in costruzione in periferia può diventare per uno skateboarder uno spot, e diventando uno spot può diventare zona di aggregazione per dei movimenti di ragazzi. Quindi lo skateboarding stesso definisce una visione differente della città rispetto a quella che magari può avere una persona che passeggia o semplicemente si muove per andare in ufficio la mattina in auto. Perché poi è anche l'attenzione a qualcosa a cui di solito non si presta attenzione: il selciato, la tipologia della pavimentazione. Indubbiamente più di una volta, andando in giro in auto, anche in metropolitana quando eravamo più piccoli, noi guardavamo dai finestrini ininterrottamente la città in cerca di spot e giudicavamo quello che tu adesso hai accennato. Quindi noi giudicavamo la parte del manto, che normalmente si chiama flat, quindi giudicavamo il flat, giudicavamo i piani inclinati, anche una semplice rampa per portatori di handicap per noi si è sempre chiamato un bank. Quindi proprio è una maniera differente di guardare la città, l'architettura, e in qualche maniera è anche un'ingordigia visiva, perché tu cammini all'interno di una città e la guardi ingordo di architettura per poterla poi skateare. Fai lo skate ogni giorno? Quando mi alleno. Ora devo fare una gara importante, si corre ogni anno. Certo, la downhill. E come la conosci? Mio fratello la vuol fare. Anche tuo fratello? Già, non fa che parlarne da quando sono arrivata. Dice che il vincitore si porta via ben $1,000. Non è mica una corsetta, è la downhill. Non l'hai mai vista la downhill, vero? No. 25 o 30 matti che vengono giù a 70-80 km l'ora. Non puoi immaginare che effetto fa. Ti scuote, poi a un tratto la tavola su cui corri si mette a ballare e... Boom! Ci vuole una spatola per raschiarti da terra. Dai, divertente. Vieni a vederci, vuoi? Ah, sì. Finisce qui anche questa puntata, meglio di Essere Avere. Siamo al lavoro per preparare i contenuti della prossima stagione. Per agosto vi abbiamo preparato una sorpresa. Siamo impazienti di svelarvela. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.